Non, certes, elle n'est pas bâtie. Non, certes, elle n'est pas bâtie. 23, 24 e 25 aprile 2010, festa della liberazione. 8 anni di occupazione del CSA Cartella. Sur du sable sa dynastie. Sur du sable sa dynastie. Venerdì 23 aprile, ore 17, apertura del villaggio resistente. Stand, mostre, laboratori, write session, assemblea resistere oggi. Ore 21:30, concerto, tra libri e zanzare di Mimì Sterrantino. Il peut dormir ce souverain. Il peut dormir ce souverain. Sabato 24 aprile, ore 16, conferenza stampa, apertura campagna referendaria. A Reggio Calabria, l'acqua non si vende. Ore 18, presentazione della mostra Magna Italia, un racconto fotografico su Rosarno. Ore 18:30, assemblea Resistiamo al razzismo. Ore 21:30, concerto Operai della Fiat 1100. Que ça s'est vu dans le passé. Que ça s'est vu dans le passé. Domenica 25 aprile, ore 10, Fiera della Decrescita, agricoltura naturale, artigianato locale, consumo critico e riciclo. Ore 12:30, presentazione dei murales sulla resistenza. Pranzo sociale con la presenza dei partigiani Aldo Chiantella e Vittorio Calvari. Ore 17, conclusione dei laboratori di riciclaggio creativo a cura dell'Associazione Magnolia. Ore 18, mostra informativa sulla rivoluzione dei garofani, proiezione film Capitani d'Aprile. Ore 21, proiezione video ricordo di Antonio Calabria Familiari. Ore 21:30, concerto Radici Calabre. Maria le soir renversé, mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Puoi seguire le iniziative sul web all'indirizzo www.transizionedifase.org.